volta lungo il Canal Grande è stata vista una bellezza femminile. Da allora in ogni calle, nelle piazze di città, di lei si incominciò a parlare. Lo sapete, brava gente, che a Venezia adesso sei la brunetta in gondoletta. Ricordate la biondina, si è sposata l'altro ieri con un biondo gondolier. Dalle sponde dei canali già si sente mormorar, sta arrivando la più bella bamboletta. Sembra uscita da un dipinto d'un pittore veneziano, la sei proprio da ammirare. Per poter guardare meglio sta putea, seppure alzata l'alta marea, e persino il vecchio ponte dei sospiri sospira, sospira, sospira così. Lo sapete, brava gente, che a Venezia adesso sei la brunetta in gondoletta, la sedegna d'esser vista perché proprio fa piacer, oh streghetta che piacer. Guardare meglio sta putea, seppure alzata l'alta marea, e persino il vecchio ponte dei sospiri sospira, sospira, sospira così. Lo sapete, brava gente, che a Venezia adesso sei la brunetta in gondoletta, la sedegna d'esser vista perché proprio fa piacer, oh streghetta che piacer. Se Venezia sei un prodigio di bellezza e di color, la brunetta sei un tesoro.